In questo istante siete collegati e in diretta con Radio Onda Rossa, Radio Libera di Roma e Provincia, 87.900 in FM. Qui chi vi sta parlando è Nino H DJ Misk, che naturalmente vi presenterà Altro Verso per tutto il sabato notte dalle ore 23 fino alle 6 della mattina. Questa è la puntata numero 700 di oggi, sabato 18 febbraio, rigorosamente in diretta. Ed è naturalmente dedicata a tutti gli appassionati e le appassionate di musica elettronica. Se non vi piace questa musica, mi dispiace per voi, insomma, cambiate stazione, spegnete radio, mettete qualcos'altro, ma adesso va in onda la musica elettronica veramente che arriva dal cuore, direttamente così, per emozionarvi e trasmettervi veramente nuove sensazioni. Dunque, oggi vi dicevo, sabato 18 febbraio, in diretta anche un sabato di iniziativa per quanto riguarda Altro Verso. Avremo insomma da ballare un bel po' di questa ottima musica con me, con i ragazzi del Black Tangle DJ Set. Voglio in questo caso anzi salutare parecchie persone. Voglio salutare in primis Giorgio Superman e Costanza per la loro insomma grande accoglienza alle Tre Caffè. Poi saluto Simona, saluto Pippi Carzarrete, Maurizio, Marta, insomma tantissimi altri amici, adesso non ricordo benissimo i nomi, poi li dimentico, insomma sono altri, però comunque stanno veramente nei miei pensieri e dedico loro anche questa puntata numero 700 di Altro Verso, che velocemente vado a farvi a partire e a farvi ascoltare musica elettronica qui su Onda Rossa. Radio Onda Rossa ti invita all'ascolto di Altro Verso. Dalle 23 alle 6 del mattino. News, classifiche, recensioni, live e DJ set da tutto il mondo. Altro Verso, il meglio della musica elettronica. Novità per questa settimana, la prima, iniziamo con Mark Chambers e la sua Dirty Little Circle su etichetta Flumo Records, sempre all'ascolto di Altro Verso. Andiamo avanti con la musica, adesso arriva Loquace con Yeah Yeah nella versione remix di Duskies Stupid Simple su Deep Tech. Così Loquace con questa Yeah Yeah, seconda novità di questa settimana per Altro Verso, solo musica elettronica. Adesso parliamo di questo sabato 18 febbraio 2012, naturalmente iniziativa targata Altro Verso con Black Tangle DJ Set, si chiama esattamente Feral Pigeons Volume 1. Infatti questa è la prima di una lunga serie di serate che andremo a fare esattamente alla Without Music Club. Si trova in Via dei Magazzini Generali, un bel clubetto molto diciamo da gatto nero, da archettone, un po' così per usare un termine un po' diciamo molto slang. Dunque questo clubetto sotto terra si trova veramente molto bello, un 200 persone, quindi siete tutti e tutte invitate per questa bella serata che inizierà tra pochissimo, anzi è già partita ufficialmente dalle 23 fino all'1. Infatti ci sarà il Black Tangle, diciamo prepari, poi dall'1 alle 4 Altro Verso DJ Set con DJ Misk direttamente da Radio Onda Rossa e da Altro Verso insieme a Black Tangle. Poi fino alle 7 della mattina, ovvero dalle 4 alle 7, andremo avanti con l'after party, insomma per tutta la notte anche Environmental Installations ad opera di Fabio, Giorgio ed Alberto. Una bella serata per ascoltare ottima musica elettronica, per naturalmente immergersi nell'underground romano. Feral Pigeons Volume 1. Ho cambiato disco per così proporvi la prossima traccia, si chiama Amirali ed esce esattamente su Crosstown Rebels, si intitola Beautiful World. We'll be right back. It's a Beautiful World, Amirali, su etichetta Cross Rebels. Anche questa è un'ottima grande new release all'interno di Altroverso. Vi ricordo, per contattarmi 0649 1750, oppure tramite email altroverso@ondarossa.info. Questa è sempre Radio Onda Rossa, la radio libera a Roma e provincia, e state ascoltando Altroverso, solo musica elettronica underground, naturalmente solo grande musica elettronica. Questo è Take di Scissors su Steel for Talent, loro sono Da Pike e Pad Berg. Bellissimo, è veramente potente. Take the Scissors and Run, Steel for Talent è la label, gli artisti sono Da Pike e Pad Berg. quarta new release per questo sabato 18 febbraio, rigorosamente in diretta da Radio Onda Rossa. Nino H DJ Misk, che vi fa ascoltare solo la migliore elettronica del grande, e ve la farà ascoltare anche dal vivo oggi al Without Music Club in via dei Magazzini Generali, zona Ostiense. Ingresso gratuito per tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Altro Verso. Abbiamo registro adesso, voltiamo pagina, nuovo disco di The Micronaut, si chiama Carfen, remixato da The Glitz per la Hacker Records. Questo è The Micronaut, Carfen, The Glitz Remix su Hacker Records. Adesso ascoltiamo velocemente Alex Tien, Larry Peters con Man. Questo è remixato da Yapak featuring Flora Parr su Snub Records. Feeling safe. Yeah. ottimo rework ad opera di Yapak insieme a Flora Parr per Man, traccia originale di Alex T e Larry Peters, che uscirà prossimamente su Snub Records. Adesso parliamo di questo sabato 18 febbraio 2012, Feral Pigeons, volume 1 al Without Music Club, free entry per tutti e tutte gli ascoltatori ed ascoltatrici di Altro Verso. È già iniziato il pari alle ore 23, fino a 1 di notte ci saranno Black Tangle ad accompagnarvi insomma nel pre-pari, poi il vero e proprio party comincerà a 1 di notte quando arriverò io a selezionare la migliore musica elettronica underground insieme a Black Tangle fino alle 4 di notte, poi nell'after party dalle 4 di notte alle 7 della mattina Altro Verso DJ set, e lì veramente insomma andremo proprio giù di brutto fino a mattina proprio. Per tutta la notte ci saranno le installazioni di Fabio Giorgio ed Alberto, insomma ogni scusa è buona per festeggiare, siamo sotto carnevale, oggi è un bel sabato di carnevale, come festeggiarlo se non nel miglior modo con la musica elettronica di Altro Verso. Maggiore informazione allo 0649 1750, comunque si trova in via dei Magazzini Generali il Without Music Club, ingresso gratuito per tutti e tutte, vi ricordo. Adesso sono passato subito al nuovo lavoro di Tim Xavier su etichetta Regular Records, si chiama Play on Words. Ottimo Team Xavier con Play on Words su Regular Records, sono le ore 23.28, vi ricordo maggiori informazioni riguardo alla playlist di Altro Verso, riguardo insomma a tutte così, ai nomi degli artisti, nomi delle tracce, nomi delle label, basta andare sul sito www.altroverso.net, c'è anche la sezione podcast per riascoltare la trasmissione e la sezione radio online per ascoltare 24 ore su 24 le selezioni più aggiornate di musica elettronica, perché insomma qui da queste parti si guarda avanti, non si guarda al passato, le cose già insomma scritte, già conosciute, no, qui mi piace guardare avanti e farvi così scoprire dei nuovi mondi, questo è Altro Verso e questa è naturalmente Radio Onda Rossa. Adesso ci fermiamo esattamente per un 3 minuti e poi seconda parte di Altro Verso, mi raccomando non mollate, rimanete sempre qui su Onda Rossa. sabato 18 febbraio 2012 presso Acrobax, ex cinodromo della capitale in via della Vasca Navale 6, arriva The Rag Circus Special Carnival Edition, il carnevale più incendiario ed esplosivo in circolazione a sostegno di No Tab. Sul palco Adriano Bono e Torpedo Sound Machine, il Giaca dalla Sicilia via Firenze, Buzzurro Auta Mugina Crew da Cosenza, più un carrozzone di folli circensi che non finisce mai. Lucignolo, Fiammetta, Bretella, Alessio Evviva, Mad Jobs Queen e molti altri. Le maschere più belle saranno portate sul palco per essere acclamate dal pubblico. Nella sala B, selezioni Trash Revival con Take It Easy. Nella sala Yard, prima e dopo lo spettacolo, reggae a cura di Radio Torre e Madoc Crew direttamente da Torino. Il tutto a sostegno delle spese legali dei Neotab, perché la valle non si arresta. Non si arresta. Si arresta. Info si arresta. Su Acrobats. Contro ogni carcere. Sostiene e diffondi cultura d'evasione. Da mercoledì 8 febbraio al Laboratorio Sociale Quarticciolo, rassegna cinematografica contro il carcere. 8 febbraio, Papillon di Franklin J. Schaffner. 15 febbraio, Ormai è fatta, di Enzo Monteleone. 22 febbraio, Cella 211 di Daniel Monfon. 29 febbraio, Hunger di Steve McQueen. Inizio proiezioni alle 20.30. Ingresso libero. Open Pub, Laboratorio Sociale Quarticciolo. Centro documentazione antagonista, la TALP. Via Ossuni 9, bus 451 213 501, tram 14. febbraio 2012. L38 Squat festeggia i 21 anni di occupazione e autogestione. 21 anni di lotte, passioni, sogni ed evasioni. Giovedì 16. Carnevale per le strade del quartiere. Murga, giocolieri, scorribande di saltimbanchi e artisti circensi. Partenza ore 15.30 dal sesto ponte. Venerdì 17. Seconda edizione di Art Express. Dalle 16, mostre e murales resistenti sui muri dello squat. Dalle 20, cena sociale. Dalle 22, concerti con... Right here. Esplosione plastica. Mastodontic Shit. Babylon Corpses. Pugni in tasca. Serpe in seno. Sabato 18. On the bridge, out of the siege. Sopra il ponte, fuori dall'assedio. Dalle 15, allenamento e prove di percorso. Lezione e dimostrazione di parkour con i ragazzi di Gaza e delle periferie di Roma. Dalle 18, concerti con... RS Crew. Occhi Viola. High Town. Dalle 20.30, chiacchierata a cena. Dalle 22, breakdance e concerti con... Sobby Nash. Azzel. Il Nano. Jungle Beat. Nessuna galera, nessuna frontiera. Si parte e si torna insieme. Si parte e si torna insieme. Si parte e si torna insieme. Sabato 25 febbraio, corteo nazionale No Tab. Troppi momenti, troppi interventi. La polizia si incazza e carica i presenti. Forze dell'ordine che fanno disordini. Si parte e si torna insieme. Il 26 gennaio il movimento No Tab è stato colpito da 26 arresti e 15 obblighi di dimora. Dalla Valsusa a Palermo, i compagni e le compagne sono stati accusati di resistenza al pubblico ufficiale e lesione. Meglio di no, potrei non sopportarlo. Io non ci sto, governo bastardo. Così non si può, voglio disturbarlo. Il 25 febbraio torneremo in quella valle per ribadire ancora una volta No Tab per la difesa del territorio e la libertà di manifestare. Si parte e si torna insieme. Sabato 25 febbraio, corteo nazionale No Tab. Per i pullman, info e prenotazioni, Radio Onda Rossa 0649 1750. Libertà per tutte e tutti. Radio Onda Rossa, la voce della cultura antagonista. Antagonista. You're listening to Altraverso 87.9 FM. siamo così ripartiti con questa ottima White Chocolate Remixes per Michael Stavostrand su Black Records. L'artista è It Zone. E così la seconda parte di Altro Verso. Altri suoni, altra musica elettronica. Adesso entra Gabriele Carrasco Meets Asirne con Jacques, remixato da Uvd su Amam Records. Qui Onda Rossa. Bella anche questa versione di Uvd, sempre bella musica, vi faccio ascoltare qui all'interno di Altro Verso. Questa era Jacked, remixato da appunto Uvd. Gli artisti erano Gabriele Carrasco insieme ad Acirne con la label Amam Records. Sono le ore 23.40, siete in diretta qui su Onda Rossa, state ascoltando Altro Verso, solo la migliore musica elettronica underground. Questo sabato 18 febbraio vi invito ancora alla serata Feral Pigeons volume 1, serata di carnevale, insomma chi viene anche mascherato paga doppio al bancone, visto che l'ingresso è gratuito, insomma se venite mascherati vi spetta di pagare il doppio. Ma sto scherzando, naturalmente non è così, anzi c'è un trattamento particolare proprio agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Altro Verso. Dove si trova il locale Without Music Club? Esattamente in via dei Magazzini Generali 4D, quindi è facilissimo, è la stradina insomma che incrocia Via Ostiense vicino a via del Porto Fluviale. Troverete proprio DJ Misca a selezionare tutta questa grandissima musica insieme poi naturalmente al Black Tangle DJ Set, insieme alle installazioni di Fabio, Giorgio ed Alberto. Vi ricordo Feral Pigeons volume 1 questo sabato 18 febbraio. Sono passato subito alla traccia successiva, si tratta di James Creed con Snarf, la label è La Classe. Thank you. E questa è James Creed, la traccia si chiama Snarf, la label è la Classe Records. Adesso arriva Shlomi Aber con In a Dance Tripping su BS1. Shlomi Aber in Dance Tripping su etichetta BS1 Records, grande produzione da questo artista, insomma veramente molto noto nell'ambiente underground. Adesso arriva Shinedoh con Light dalla Get Physical Records, un'altra grande label, insomma un altro grande artista della musica elettronica del terzo millennio. Questo è Altro Verso. nuovissima traccia di Shinedo su Get Physical Records, si chiama Light, veramente ottima new release qui in Altroverso. Vi ricordo maggiori informazioni sul sito www.altroverso.net, trovate la playlist completa, naturalmente la web radio online 24 ore su 24 e le varie informazioni riguardo proprio alle tracce che stiamo ascoltando qui in questa diretta di oggi, sabato 18 febbraio 2012. Sono passato alla prossima novità, il Cubic and Tuck Traumer con Feel So Good, Zwizak remix su etichetta Black Fox Music. Così gli Zwizak che ci rendono questa versione molto tecnoide dei Feel So Good, traccia originale di El Cubic and Tag Traumer per la Black Fox Music. Adesso entra velocemente Geoffrey Vince con Blue Sky, remixato da Eddie Morenas su Scanda Records, ed è anche l'ultima novità di questo sabato 18 febbraio, sempre qui su Onda Rossa, sempre con Altro Verso. Chi vi parla è DJ Misk. Thank you. Così con Geoffrey Vince e questa Blue Sky chiudiamo questa puntata numero 700 di Altroverso, anzi chiudo perché sono solo a produrre, a portare avanti Altroverso ormai da un bel po' di tempo a questa parte, visto che l'altra metà insomma è andata verso altri lidi, proprio non esiste più, quindi c'è solamente DJ Misk a proporvi Altroverso, la migliore musica elettronica underground, e lo fa sempre con passione e soprattutto sempre con la costanza che insomma così mi fa portare avanti questo progetto veramente unico e veramente insomma intenso Altroverso ormai da 13 anni qui su Radio Onda Rossa. Dicevo, si va a concludere questa puntata numero 700 di oggi sabato 18 febbraio, vi annuncio il disco della settimana, si tratta di Shonky con The Minneapolis Touch su etichetta Apollonia Records, lo ascolteremo ogni 60 minuti. Vi rinnovo l'invito per questo sabato sera, sabato di carnevale, con la musica da ballare di Altroverso. Feral Pigeons volume 1 al Without Music Club, che si trova in via dei Magazzini Generali 4D zona Ostiense. Inizieremo tra pochissimo con le selezioni proprio di Altroverso. Il tempo di arrivare, insomma, credo all'una di notte proprio partirò e andremo avanti fino alle 7 della mattina. Ci sarà anche il Black Tangle DJ set e per tutta la notte le Environmental Installations by Fabio, Giorgio ed Alberto. L'ingresso è gratuito per tutti e tutte gli ascoltatori ed ascoltatrici di Altroverso. Insomma, basta dirlo lì all'ingresso che c'è Altroverso qui, sì, è ok, entrate alla grande, insomma, così per ballare fino alla notte. Allora, ci salutiamo qui per quanto riguarda la diretta, ci vediamo tra poco lì al Without Music Club, mi raccomando sempre volume altissimo, sempre sintonizzati su Onda Rossa, sempre con Altroverso.